primo premio Raúl Laurí de Café España. Stravincono i progettisti iberici alla terza edizione del Salone Satellite Awards, portando a casa non solo il titolo più ambito ma anche la medaglia d'argento con il progetto della caraffa di ceramica che raffredda l'acqua in maniera naturale. Che cosa ha fatto invece Raúl Laurí per accaparrarsi il primo posto? La parola ad un suo amico che si è prestato a fare da interprete. Ha studiato che il caffè è la seconda materia più consumata in tutto il mondo, subito dopo il petrolio. Lui ha sviluppato una tecnica completamente naturale per compattare il caffè e poterlo lavorare come un legno, come un materiale molto lavorabile. La tecnica si chiama decaffè ed è anche completamente ecosostenibile perché è basata sul riuso della polvere di caffè che di solito viene buttata per creare, ad esempio, l'involucro di lampade a LED ricaricabili. E gara a parte, vale la pena spendere qualche ora al Salone Satellite, dove si respirano la creatività, i sogni e la voglia di fare dei 750 giovani designer internazionali, in linea con la filosofia di Steve Jobs, al quale la manifestazione di quest'anno è simbolicamente dedicata. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.